Terra in vista. L'Italia spiegata a mio figlio. Ben ritrovati a Terra in vista da Federico Taddia e Telmo Piovani. Eccoci. Un giornalista e un filosofo della scienza che prendono per mano i più piccoli ogni estate per accompagnarli alla scoperta di qualcosa. Quel qualcosa in quest'estate è il nostro paese, l'Italia. Una bella sfida. Assolutamente. Poi la parola di oggi è italiana da tutti i punti di vista. Quella è la parola. Costa. Ne abbiamo più di 7000 chilometri, direi. In effetti, che è una parola, è un aspetto particolare del nostro paese, no? Perché spesso ci dimentichiamo, uno pensa all'Italia, alle pianure, alle montagne, però poi c'è questo lungo, lunghissimo profilo che invece ci caratterizza. E dove c'è di tutto. Quindi andremo a conoscere, a scoprire l'Italia dal punto di vista delle coste e partiamo proprio dai nostri giovanissimi ascoltatori. A loro abbiamo chiesto di raccontarci che cos'è una costa. Per me la costa è dove ti puoi rilassare con i tuoi amici e farsi una bella camminata o altre cose, tipo pescare. È l'incontro tra la terraferma e il mare. Allora, può avere il litorale sabbioso o roccioso, con tanti scogli e sassi. La costa è dove il mare bagna la terra. Anche un lungomare, per esempio, la costa. Il mare è una distesa d'acqua. Le persone vanno al mare per rinfrescarsi, per divertirsi. Per fare il bagno e serve pure a tenere i pesci dentro. Il mare, secondo me, serve la vita. La costa, il mare, insomma, le bambine e i bambini hanno le idee abbastanza chiare, no? di cosa sia. Ovviamente, il nostro paese è quella cosa lì, è quel disegno dentro a questo perimetro. È un promontorio che si avvicina all'orizzonte, comincia a vedere sempre un po' più chiaro e appare l'Italia. È questo l'Italia, un approdo. Tu stai navigando in mezzo al Mediterraneo e a un certo punto vedi questa terra che si avvicina, bellissima, frastagliata. Già nell'Eneide, per esempio, c'è questo racconto bellissimo di loro che arrivano e Anchise a un certo punto stappa bevono una coppa tutti insieme perché hanno visto la costa dell'Italia. Ed è in qualche modo una pelle dell'Italia, una sorta di membrana di comunicazione con l'esterno, perché abbiamo migliaia di chilometri di costa e la costa per l'Italia è proprio quel punto di incontro, no? Di equilibrio fragilissimo tra il mare e la terra, appunto molto fragile, perché poi, come probabilmente vedremo in questa puntata, la costa italiana è purtroppo anche una delle più antropizzate, occupate dall'uomo in ogni anfratto. Costa molto diversificata, no? Ci sono le spiagge, ma ci sono anche gli scogli, ci sono insomma delle spiagge desolate, spiagge invece che sono piccoli lembi di terra, quindi tantissima varietà. Sì, l'Italia ha coste lunghissime, ma a differenza di altri paesi, molto difformi, molto diverse tra di loro. Abbiamo le coste delle isole, pensa alla Sardegna, alla Sicilia, abbiamo le coste di un mare come quello tirreno che è completamente diverso da quello adriatico più basso, quindi abbiamo in qualche modo tutta la tipologia degli ecosistemi costieri che purtroppo però si stanno impoverendo tantissimo e non sono abbastanza tutelati oggi. Vai, allora andiamo a spiegare l'Italia ai bambini e lo facciamo con le loro domande tipo questa. Com'è l'Italia vista dal mare? Com'è l'Italia vista dal mare? Non è male come domanda, eh? L'hanno vista in tanti dal mare, peraltro. Certo. E quindi abbiamo invitato una persona che l'Italia l'ha vista per miglia e miglia dal mare, navigando tantissimo. Diamo il benvenuto qui a Terra in Vista al conduttore televisivo, giornalista, navigatore, ricordiamo Turisti per caso, e ora è volto di Linea Verde, Patrizio Roversi. Ciao Patrizio. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Oh, ma con questa presentazione cioè, mi fate troppo onore. Sembra quasi che io sia davvero un lupo di mare. È vero che sono stato molto molto tempo in barca, anche in giro attorno all'Italia, sempre un po' da passeggero, da velista per caso. È vero, bravo, che è un po' il modo migliore forse, vero, per guardarsi intorno. Ma le 6.000 e passa chilometri di coste italiane le fate tutte? Sì, nel senso che abbiamo fatto con Adriatica, la barca dei velisti per caso, più volte il Giro d'Italia, in varie occasioni, insomma, per raccontare ai ragazzi delle scuole la fisica, per incontri, per quindi sì, l'ho fatta alcune volte. Ecco, com'è il nostro paese visto dal mare? Ma dunque, è una domanda molto complessa. Allora, ci può essere un aspetto, diciamo, psicologico, sentimentale, no? Allora, per esempio, mi viene da raccontare com'è la costa italiana vista dal mare di notte. Mm-hmm. Perché di notte è particolare. Tu sei nel buio del mare, nella tranquillità del mare in genere, quando non è in burrasca, ma insomma lasciamo perdere. Comunque il mare è sempre abbastanza silenzioso e misterioso, e da più o meno lontano vedi la costa. E la cosa incredibile, almeno nella costa italiana, è l'antropizzazione, cioè il fatto che le coste sono più o meno tutte molto abitate e vissute, quindi vedi le lucine, vedi i fari, se sei abbastanza vicino vedi addirittura le automobili che vanno, no, lungo le strade. Okay. E quindi da lontano, con un senso un po' di nostalgia, un po' di estraneità, vedi la vita, no, che scorre, e tu sei un po' fuori, e questo ti può dare un po' di malinconia, ma anche molta tenerezza, ed è una bellissima sensazione. Insomma, io me la ricordo che stavo ore e ore a guardare la costa mentre eravamo in navigazione di notte. Poi invece magari vedere le coste di giorno, l'impressione è molto diversa. Devo dire che fa anche un po' arrabbiare, perché le nostre coste le abbiamo abbastanza rovinate, per cui tu di giorno riesci a scorgere, a vedere con chiarezza anche molte brutte cose che abbiamo fatto lungo le coste, cioè palazzi, costruzioni, e quindi in qualche modo abbiamo rovinato una natura che è meravigliosa. Quello, fatemelo dire, io sono stato in giro un po' per il mondo con la barca, e mi sento di poter dire che le coste italiane, se vuoi in particolare le coste del Tirreno e il mare, il nostro Mediterraneo, il Tirreno, lo Ionio, anche l'Adriatico, sono veramente tra i posti più belli del mondo. E quindi un po' il fatto di testimoniare dal mare lo scempio che spesso, non dico sempre dovunque, ma spesso abbiamo fatto, ti fa un po'... quella sì, di vera tristezza. Eh sì, certo, di tristezza, perché ti senti proprio vittima. Poi diventa anche un po' normale, no, quando si naviga sulle coste, cercare punti di riferimento, che magari può essere una montagna, può essere la conformazione della costa. Cercare, sì, allora di notte la cosa bellissima è interpretare i fari, come anche i bambini che sanno, credo, no? I fari servono a determinare appunto la posizione dei punti rilevanti, e ogni faro ha una sua luce, un suo ritmo luminoso, e quindi dire, ecco, vedi, lì siamo, qua adesso arriviamo, poi doppiamo quel capo e siamo arrivati, no? Quindi sì, è come giocare, diciamo, alla geografia in un modo molto bello e molto concreto. Patrizio, da quanto ci racconti, par di capire che l'Italia, per apprezzarla davvero, bisogna guardarla un po' da fuori. Per esempio, gli astronauti italiani dicono sempre una cosa abbastanza simile, cioè che guardando l'Italia dall'orbita di notte, guardando le luci, si vede la pianura padana tutta illuminata, e poi tutto il filo di costa, tutte piene di luci. Quindi forse la fragilità dell'Italia si apprezza, e la sua bellezza, un po' da lontano, da fuori. Cosa dici? Non da dentro. Ma allora io non ho l'esperienza straordinaria di aver volato, diciamo, in alto nel cielo come gli astronauti, però per fare le riprese di linea verde spessissimo sono andati in elicottero. Ed effettivamente l'Italia vista dall'alto, dall'elicottero, riserva moltissime sorprese, perché queste zone molto antropizzate, cioè molto popolate, molto dense di case, autostrade, eccetera, in realtà è limitata. La cosa che ti appare subito e devo dire è molto consolante è che ci sono molte zone selvagge, molti boschi. Per esempio tutta la parte centrale dell'Italia, nel senso proprio della spina dorsale appenninica, è ancora ricca di zone libere, di zone selvagge, di zone naturali. E questo è molto molto molto più di quello che ti puoi aspettare stando con i piedi per terra, perché con i piedi per terra bene o male sei su una strada, sei in una città, sei in un paese, no? E anche quando vai a fare una passeggiata in montagna più di tanto non ti allontani. Invece dall'alto questa sensazione è veramente molto molto positiva. E dopodiché dall'alto in linea di massima è un plastico, no? Vedi queste casine, vedi l'agricoltura che disegna il terreno, è molto bello, è molto tenero, no? Sembra davvero il plastico con i trenini con cui si giocava da piccoli, quindi è consolante, salvo ecco alcune zone. Ho sorvolato la Terra dei Fuochi, per esempio, in Campania, e lì ci sono proprio delle zone invece dove vedi il degrado, dove vedi che anche la campagna è stata un po' rovinata, e quello ti stringe il cuore, ma sono zone molto relative. In linea di massima, sì, l'Italia dall'alto è tenera, è vero. Che bella, una bellissima descrizione, definizione, un'Italia come un paese tenero. Salutiamo e ringraziamo Patrizio Roversi. Ma avevo come ultima domanda, c'è una spiaggia che ti è rimasta nel cuore, visto che stiamo parlando di coste e di mare? Una spiaggia, una sabbia, allora, tante? Mi vengono in mente proprio, prendiamola come una provocazione, sì, psicologica, no? Quindi dimmi la prima cosa che ti viene in mente. E allora mi vengono in mente un paio di spiagge sarde, per esempio l'isola di Budelli, che appunto sta tra la Sardegna e la Corsica. Lì è una spiaggia meravigliosa, oppure sempre andando in elicottero anche in altre zone della Sardegna, però anche che ne so, in Toscana, poco a nord di Castiglione della Pescaia, Cala Martina, Cala Violina, ecco, dall'alto o comunque dal mare, per esempio, capisci meglio come funziona il discorso delle spiagge, no? Cioè il mare che lì accumula della sabbia, là invece la toglie, le correnti, e ti accorgi che ancora una volta l'uomo riesce a modificare questi equilibri, perché costruendo, che ne so, un porto, e quindi costruendo quello che si chiama un pennello, cioè una protuberanza in cemento che penetra dentro al mare, modifichi l'andamento delle onde, certo, delle correnti e delle onde, quindi modifichi anche il paesaggio. È un dato che in effetti sarebbe bello raccontare al bambino che ci ha fatto la domanda di partenza, è che l'uomo è responsabile del paesaggio da tutti i punti di vista, anche e soprattutto del paesaggio che riguarda le coste, ma del paesaggio agricolo, e a volte l'uomo fa delle cose meravigliose, cioè lo migliora il paesaggio. Se pensi, non so, a certe colline del Piemonte con le vigne, non a caso dichiarate patrimonio dell'umanità, perché hanno disegnato un paesaggio meraviglioso, altre volte lo rovina, insomma, comunque l'uomo è responsabile. Grazie davvero a Patrizio Roversi, buona estate Patrizio, ciao. Grazie, grazie ciao. A voi, grazie. È arrivato il momento del traffico, prima però Carmen Pellegrino, la nostra scrittrice, la nostra abbandonologa, ci sta raccontando in ogni puntata un paese abbandonato, un paese che non c'è più, un paese che vale la pena riscoprire come se fosse una favola. avete mai visto quel campanile che svetta dalle acque del lago di Resia, che d'inverno si gelano così che il campanile stesso sembra un ballerino sul ghiaccio? Quello di Resia è un lago alpino artificiale nel comune di Curon Venosta, in Alto Adige. È il lago più grande della provincia di Bolzano. Un tempo però i laghi erano tre ed erano naturali. C'era quello di Resia, nei pressi del passo che ha lo stesso nome. C'era il lago di Curon, detto anche lago di mezzo, e il lago di San Valentino alla Muta. Nel 1950 fu costruita una grande diga che unificò i laghi e sommerse l'antico abitato di Curon Venosta. Gli abitanti furono costretti ad andarsene, le loro case furono fatte saltare con la dinamite. Solo il campanile non crollò, restando fermo come lo vediamo oggi, a ricordarci che prima di tutta quell'acqua lì sotto c'erano dei paesi, delle case, delle vite, che furono spostate altrove come si sposta un pacco. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Terra in Vista. Eccoci qua, puntata dedicata alle coste e siamo pronti per rispondere alla seconda domanda di un nostro giovanissimo o giovanissima ascoltatore o ascoltatrice. Yuhu! Come sarebbe l'Italia senza coste? Come sarebbe l'Italia senza coste? Questo è proprio un esercizio di immaginario, perché l'Italia è tutta coste quasi. Però insomma ci vuole della fantasia, ma è una fantasia utile, no? Perché insomma ci permette, è un po' un lavoro da scienziato questo, no? Immaginarsi, esatto, situazioni. Sospetto che sarebbe molto più povera, presumo, senza, sì, coste, il mare, senza il mare l'Italia. Ovviamente abbiamo invitato un'esperta, diamo il benvenuto a Mariella Rasotto, che è docente di anatomia comparata all'Università di Padova, biologo marino e coordinatrice del Museo di Zoologia Adriatica di Chioggia. Buongiorno Mariella, benvenuta a Terra in Vista. Ciao. Buongiorno, buongiorno a te Elmo, a Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ho sentito la domanda, non male. È una domanda veramente difficile. Allora proviamo a chiudere gli occhi, proviamo a immaginare, allora, un'Italia senza coste. Devo dire che è difficile, perché la prima cosa da dire è che il nostro paese ha 8.300 chilometri di coste, quindi è un esercizio non da poco. Un'Italia senza coste, come diceva Telmo, sarebbe un'Italia con meno risorse. Perché? Perché le aree costiere sono delle aree che tradizionalmente sono state da subito popolate dall'uomo, mm-hmm, perché sono quasi delle fasce di transizione, quindi si trovano delle risorse che sono tipicamente quelle terrestri, quindi le piante, i frutti, la vegetazione che si può coltivare, ma nello stesso tempo ha direttamente accesso a quelle che sono le risorse del mare. Le risorse del mare che possono essere il sale del mare stesso, ma soprattutto tutto il pesce, i molluschi, i granchi che ci mangiamo come alimentazione. Quindi sicuramente un'Italia senza coste sarebbe un'Italia che questi prodotti marini li dovrebbe importare integralmente. Mm-hmm. Ma ancora essere senza coste, senza le coste, vuol dire non avere più il commercio marino. E se noi immaginiamo a quanti prodotti sono arrivati anche storicamente nel nostro paese via mare, dalle spezie di un tempo fino ai grandi trasporti marittimi di oggi. Certo. È lungo le coste, sapete che sono nati i primi supermercati, ah, i, sì, romani li chiamavano empori, ma sostanzialmente erano i primi supermercati, quindi tutto quello che arrivava via mare veniva scaricato in questi grandi magazzini, in parte veniva poi per commesse trasportato via mare in altri porti, in altri paesi, ma nello stesso tempo i locali potevano andare lì e trovare tessuti, oggetti, cibo, frutta che proveniva da altri paesi. Mariella, senti, ma questa ricchezza delle coste del mare italiano è dovuta anche alla sua particolare diversità, no? Perché intuitivamente in Italia ci sono coste molto diverse tra di loro e anche i mari, no? Il Tirreno, lo Ionio, l'Adriatico sono diversi tra di loro, no? Non è uniforme il mare italiano, no, sbaglio? No, no, certo. Il mare italiano non è affatto uniforme. Dovete pensare che di questi famosi 8.300 chilometri solo 3.000 sono di coste sabbiose, quindi il 20%, mentre le altre sono rocciose. Ovviamente a questi diversi ambienti sabbiosi e rocciosi è legata una fauna e una flora che sono diversi, e quindi anche questo arricchisce, diciamo, dal punto di vista della biodiversità. Nello stesso tempo queste diverse tipologie di costa hanno anche, sono, diciamo, diversamente vulnerabili, perché per esempio la parte sabbiosa è estremamente vulnerabile all'erosione. Sì, anche adesso con i cambiamenti climatici, con l'innalzamento del livello del mare, spesso sono proprio le spiagge le prime che se ne vanno, al punto tale che su questi fenomeni molte parti di costa sabbiosa italiana si stanno costruendo delle barriere, questi pennelli, queste dighe che alle volte vediamo andando in spiaggia, che si prolungano verso il mare, sono dei sistemi in qualche modo che stiamo costruendo a protezione di queste coste. Spesso nelle aree sabbiose ci sono delle dune, no? Che sono molto belle, con una vegetazione a parte, di nuovo spesso la costruzione. L'uomo è arrivato a costruire davvero in prossimità. Mariella, un ultimo consiglio da dare ai ragazzi che in questa estate stanno camminando lungo le coste italiane, perché molti di loro hanno la fortuna di essere al mare. Sì. Cosa guardare? Tuffarsi e, ok, fare le ferie, ok, divertirsi, però vuoi dare un consiglio da biologo? Qual è un qualcosa a cui prestare attenzione per tornare su dall'acqua un po' più arricchiti? Ah beh, una delle cose che si possono vedere benissimo con maschere e boccaglio, sì, soprattutto se si è in quella prevalente area di costa rocciosa, e sono innanzitutto gli animali intertidali, cioè quelli che vivono nella fascia tra le maree, per cui vengono per 6 ore sommersi e per 6 ore esposti, okay. Per esempio i piccoli denti di cane o le patelle che vediamo negli scogli quando siamo al sole. Loro hanno delle strategie fantastiche di chiudersi dentro con dell'acqua quando sono esposti, ma se ci andiamo invece, se li andiamo a guardare in bassa marea, vedremo che si aprono, quindi vedremo i loro pennacchi di filtrazione. E poi nei primi metri d'acqua ci sono tutta una serie di piccoli pesci, sono ghiozzi, sono bavose, che vivono lì, fanno il nido. I maschi sono degli animali territoriali, difendono il loro nido, sono loro che curano i piccoli, curano le uova, e lì con un po' di pazienza e di attenzione li vedrete, ci sono i peperoncini per esempio che hanno la testa, che sono rossi scarlatti, li si distinguono bene, state 10 minuti se ne vedete uno a guardarlo e lo vedrete frenetico nel mandar via altri maschi che arrivano, poi entrare nel nido, smuovere le pinne perché ventila, porta ossigeno alle uova, quindi c'è un mondo proprio nelle prime metri d'acqua, che con una mascherina in piena sicurezza, stando attaccati agli scogli, si possono vedere davvero, è come andare a teatro, secondo me. Grazie davvero Mariella Rasotto, buona estate Mariella. Ciao, grazie. Grazie a te Federico, ciao, ciao Telmo, buona estate anche a voi e agli ascoltatori. Dopo aver dato un'occhiata ai primi metri, appunto, di mare oltre la costa, proseguiamo con una delle storie di Telmo Pievani. Telmo. Ma io rimango esattamente nello stesso posto, cioè dove finisce il mare e cominciano quei 5 metri di spiaggia che si chiama battigia. Sì. E vorrei proporti scherzosamente di creare un fronte di liberazione delle spiagge italiane. Dai racchettoni? O della battigia italiana. Perché? Perché la storia è questa: esiste una legge in Italia che è stata promulgata nel 2006 che dice esattamente questo, dà l'obbligo a tutti i titolari delle concessioni che sulle spiagge di consentire libero e gratuito accesso e transito per raggiungere la battigia anche per fare il bagno. Quindi ricordiamolo, l'accesso al mare è libero, è previsto dalla nostra Costituzione, è un diritto di tutti, soltanto ovviamente bisogna evitare di mettere oggetti molto ingombranti che impediscano per esempio ai bagnini di andare a salvare qualcuno all'occorrenza. Quindi la spiaggia, il mare, la battigia non si può chiudere, non si può recintare e non si può nemmeno obbligare qualcuno per trovare una spiaggia libera a fare 10 chilometri, si chiama demanio marittimo. E anche quando viene dato in concessione, chi ce l'ha in concessione ha diritto per fini turistici e commerciali di avere una, ovviamente un guadagno, ma deve sempre tenere presente che sta gestendo un bene pubblico, quindi che deve essere aperto a tutti. Quindi lancio un appello, riprendiamoci le nostre spiagge e, se proprio non è possibile, almeno la battigia. Quindi si può fare la pista per le biglie? Si può fare la pista per le biglie. Perfetto, tra un attimo ancora qua con l'Italia spiegata a mio figlio. Terra in vista. Terra in vista, eccoci qua ancora, Federico Taddia e Telmo Pievani, l'Italia spiegata a mio figlio. La parola di oggi è costa. Cerchiamo di raccontare il nostro paese da questo punto di vista particolare che, insomma, ci sta portando a scoprire il nostro litorale, i nostri mari e poi tanti altri aspetti. E come sempre lo facciamo attraverso le domande dei bambini, domande come questa. Yuhu! Quali sono i venti italiani? Ecco, io non ci ho mai capito niente della rosa dei venti. Ah no? Quindi cerchiamo di capire un po'. Anche se magari, cioè, ci sono dei venti che sono proprio solo italiani. La tramontana, chi lo sa? Non lo so. Beh, per questo abbiamo invitato come sempre un esperto, un'esperta in questo caso. Diamo il benvenuto alla meteorologa del centro Epson Meteo, Serena Giacomin. Ciao Serena. Ciao. Ciao, ciao, che bello sentirvi. Conosciamo Serena, siamo abituati anche a vederla mentre fa le previsioni, però ho scoperto essere anche un'appassionata, non solo competente, ma anche un'appassionata di venti, cioè ti piacciono. Sì, guarda, tra l'altro io ho iniziato a fare la meteorologa, ho fatto un percorso per diventare meteorologa proprio perché quando ero piccolina, avevo 7 anni, quindi ero davvero piccola, ho iniziato a andare in barca a vela, quindi insomma con il vento ho sempre imparato ad avere a che fare. E tra l'altro bellissima, perché questa cosa che la trasmissione si chiama Terra in Vista, tante volte la terra è in vista anche perché il vento riesce a portarci verso le nostre coste, riesce a farci vedere questa terra. Brava, brava. Allora, la domanda è molto semplice. Quali sono i venti italiani? Sì, la domanda è semplice, la risposta non è così semplice, quindi capisco anche un po' la confusione che si fa, perché il territorio italiano è un territorio che è particolarmente complesso, i chilometri di costa sono tanti, voi comunque in questa trasmissione, in questa puntata state affrontando un tema che è molto importante, perché le coste sono tante in un territorio, quello italiano, che è sviluppato per il lungo, quindi abbiamo a che fare con il mare, abbiamo a che fare con un vento che cambia spesso direzione anche in funzione delle coste che le correnti di vento vanno ad incontrare. I venti in Italia sono tanti, ce ne sono alcuni più famosi e alcuni meno famosi, quindi ditemi anche voi quelli che conoscete e quelli che invece magari avete sentito poche volte nominare. Parto con il primo che forse conoscono in tanti, il maestrale. Sì, Il maestrale è un vento che arriva da nord-ovest, in generale entra sul Mediterraneo a partire da una zona che si chiama Golfo del Leone, che si trova a sud della Francia, e una volta che è entrato dal Golfo del Leone in maniera anche spesso molto molto molto intensa, ecco che arriva verso le nostre coste. Le prime coste che va ad incontrare sono soprattutto quelle della Sardegna e anche della Corsica, e da lì poi si dirama e va a a riguardare anche tante altre regioni che si trovano soprattutto sulla parte del Mar Tirreno. Fantastico. Il maestrale può essere davvero intenso, spesso è anche un vento fresco, quindi per esempio il maestrale che ci riguarderà, che ci sta riguardando proprio in questi giorni, ha portato via anche un po' il caldo che ci ha spissiato invece in queste settimane estive, e dunque ha queste caratteristiche. Ed è un maestrale che è anche bello da veleggiare, quindi quando si imbarca a vela di solito con il maestrale bisogna fare attenzione, però ci si diverte tanto. Fantastico. E lo scirocco? Lo scirocco possiamo quasi dire che sia il contrario del maestrale. Abbiamo detto che il maestrale arriva da nord-ovest, lo scirocco invece arriva da sud-est. Ed è il contrario perché le caratteristiche sono proprio diverse. Allora, quando si va al mare oppure anche quando si è in montagna, ma perché no, anche quando si è in città, si può fare un attimo attenzione a quelle che sono le caratteristiche dell'aria che ci circonda. Quando arriva il maestrale il cielo di solito è più limpido, l'aria è un po' più fresca e più frizzante. Quando arriva lo scirocco invece, dato che arriva in generale dall'Africa, la direzione è da sud-est, ecco che il cielo diventa più lattiginoso. Spesso e volentieri lo scirocco riesce anche a trasportare le polveri sahariane verso il territorio italiano. Quindi da che cosa ci accorgiamo che c'è scirocco, per esempio? Guardando le macchine, soprattutto quelle scure, quando c'è scirocco ecco che si vanno a riempire, se magari c'è un po' di pioggerella, di sabbia. Infatti, Serena, perché mentre parlavi mi stavo proprio chiedendo questo, cioè la carta d'identità, come fai a riconoscere un vento? Quindi dalla direzione, allora, dalla temperatura, non c'è scritto. Io non so qual è lo stato della vostra capigliatura, però anche dai capelli. Se arriva il maestrale i capelli tendono a restare più lisci. E anche sono più morbidi. Quando arriva lo scirocco, ecco che i capelli diventano crespi e tendono ad arricciarsi, perlomeno i miei. Ma in generale ci sono queste caratteristiche. Per una donna è più facile, per esempio, avere i capelli lisci con il maestrale. Con lo scirocco invece diventa difficile tenere la piega. Quindi pensate a quanti sono le implicazioni. A livello fisico, con lo scirocco ci si sente più stanchi, spesso un po' più affaticati, perché c'è un caldo, spesso associato ad umidità. Noi parliamo di quest'afa, no? Questa situazione in cui c'è caldo, associato umidità, e allora spesso ci sentiamo un po' affaticati, dobbiamo bere di più, mentre con il maestrale ci si sente un po' più pimpanti, e quindi ci si accorge proprio di queste differenze, non solo magari guardando una bandiera o guardando la superficie del mare, ma anche facendo un po' di attenzione allo stato fisico in cui ci ritroviamo. I venti hanno anche questo potere di condizionare lo stato di salute durante le nostre giornate. Fantastico. Senti, e da nord cosa arriva da nord? Il freddo? Da nord arriva la tramontana, è uno dei miei venti preferiti, però spesso è un vento molto molto molto freddo, anche questo spesso si manifesta in maniera tesa e anche impetuosa, ed è un vento secco, quindi similmente al maestrale, forse anche di più, è un vento che ci fa sentire piuttosto svegli, piuttosto frizzantini, quindi è un vento che ci tira su dal punto di vista fisico, è un vento che in generale arriva comunque dalle latitudini settentrionali, quindi possiamo parlare dell'Europa settentrionale, e in generale comunque quando arriva la tramontana ecco che la temperatura si tende ad abbassarsi nettamente. Ma dici anche invece questo... un vento particolare, strano, che non abbiamo mai sentito? Allora, ditemi, questo forse voi lo conoscete, il vento di Fönn. Ah sì, quello caldo che non ti aspetti d'inverno. Il vento di Fönn è un vento molto molto particolare, perché il vento di Fönn è un vento che arriva dalle montagne, allora uno gli viene da pensare, se arriva dalle montagne probabilmente sarà un vento più fresco, e invece no, perché il vento di Fönn scende dalle montagne e durante la sua discesa dalle montagne tende a scaldarsi. Cerco di spiegarvelo in maniera semplice, sì. Provate a pensare all'arco alpino. Ok. Allora, arriva una perturbazione dall'Europa e incontra il nostro arco alpino, e quindi questa perturbazione vede l'arco alpino come se fosse un ostacolo. Quando arriva il vento verso il nostro arco alpino, nel versante quello estero, ecco che questo vento tende a salire in quota. Salendo in quota, questa massa d'aria, questo vento si raffredda, e quindi il vapore d'acqua condensa. e così dà vita a delle precipitazioni. Poi questo vento continua il suo percorso e dunque l'arco alpino, queste montagne, riesce a scavalcarle completamente, solo che adesso sono più secche perché hanno perso tutta la pioggia, tutta l'umidità che questa massa d'aria possedeva prima di incontrare le Alpi. Questo vento più secco tende a scendere, a proseguire il suo percorso in discesa dalle montagne verso la pianura padana in questo caso, e si riscalda e quindi arriva in pianura padana, scaccia via l'umidità e tendenzialmente fa aumentare anche di netto le temperature. Quando arriva il vento di Fern possiamo avere anche 5 gradi in più nel giro di pochissimo tempo ed è veramente veramente molto molto secco. Pensate che il vento di Fern ha una caratteristica però, è talmente secco che generalmente tende ad irritare le persone perché il tasso di umidità è così basso che ci dà un po' fastidio e ci rende facilmente irritabili. Però col vento di Fern i capelli dovrebbero essere pettinati benissimo, no? Sono liscissimi. Certo, perché insomma è quasi una piastra, ecco. Esatto. Grazie davvero Serena Giacomin per questo viaggio tra i venti italiani. Andrà in barca a vela quest'estate? Guarda, penso proprio di sì, anzi ti dirò di più, non vedo l'ora perché sono un po' in astinenza e quindi sono lì che sto proprio aspettando, sto facendo il conto alla rovescia. Che per te però è aggiornamento professionale, quindi va benissimo. Ma dipende dall'umore, quindi dal vento. Bravo, e dai capelli. Spero ci sia un po' di maestrale, un po' di tramontana. Ciao Serena, grazie, buona estate. Ciao, ciao. Ciao, ciao. A voi, ciao, a presto. E spinti dai venti italiani andiamo alla scoperta di un'altra storia di Telmo Piovani. Ma guarda, abbiamo parlato di venti e quindi anche di correnti marine e siccome in questa puntata parliamo dell'Italia vista dal mare, ti racconto una storia di qualcuno che l'ha vista dal mare l'Italia, una tartaruga però, non un essere umano. È una storia molto particolare, nel 1760 una grandissima, enorme tartaruga con una forma molto strana, sembrava un liuto, ebbe la sventura di spiaggiarsi sul litorale di Ostia. Un animale stranissimo, questo rettile, venne portato in dono al Papa, che era Clemente XIII, al quale non sapeva cosa farsene, e lo regalò all'Università di Padova, al Gabinetto di Scienze Naturali. Lì un grande naturalista lo descrisse, Vallis Neri, un altro lo dipinse, lo disegnò e venne mandato a Carlo Linneo, addirittura il grandissimo esperto della tassonomia delle specie, quello che ha dato i nomi a tantissime specie, e le diede un nome, la tartaruga liuto. E pensa che compare nel Guinness dei primati perché è il rettile più veloce del mondo. E adesso, naturalmente, come tantissime tartarughe marine che vedono l'Italia dal mare, è in gravissimo pericolo perché deve migrare, deve fare tantissimi chilometri seguendo proprio i venti e le correnti, mangia cose che purtroppo assomigliano terribilmente ai sacchetti di plastica e quindi fa confusione, li mangia e questo gli crea dei grossissimi problemi ai canali digestivi. La stessa cosa che succede alla famosa caretta caretta, la nostra tartaruga marina, i cui siti di nidificazione in Italia, nel Mediterraneo, sono ancora troppo pochi, anche se forse piano piano stanno aumentando. Questo è un punto di vista un po' particolare che ti dice però che le coste italiane, l'Italia vista dal mare, è ancora e purtroppo continua ad essere inospitale per tanti abitanti che tutto sommato la vedevano così da milioni di anni. E con la nostra tartaruga andiamo a parlare ancora di animali, è il momento di Fringuelli d'Italia. Fringuelli d'Italia. È il momento degli animali, animali che sorprendentemente si trovano in Italia. Andiamo a esplorare i luoghi di cui parliamo durante le puntate. Tutto ciò lo facciamo con Caterina Spiezio, responsabile settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo. Ciao Caterina, ben ritrovata. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi stiamo esplorando le coste italiane. Quale animale ci presenti? Vi parlerei del falco pescatore che purtroppo dalle coste italiane, in particolare dalle coste della Toscana, si era un po' perso, nel senso che di fatto non c'era più, si era estinto a causa probabilmente di una persecuzione diretta, quindi di una volontà di eliminare questa specie da queste zone. Però era ancora presente in Corsica. Quindi grazie ad un progetto particolarmente importante che ha visto l'introduzione degli individui che nascevano in Corsica nel Parco della Maremma, grazie al contributo ovviamente del Parco regionale della Corsica, Parco regionale della Maremma, la Regione Toscana, Lega Ambiente, il WWF, si è pensato nel 2002 di riportare i pulli, insomma i pulcinotti che nascevano in Corsica, in questa zona protetta nel Parco della Maremma, per vedere se riuscivano in qualche modo a riambientarsi nuovamente sulle coste della Toscana e quindi a ripopolare quello che era un suo originario habitat. E pian pianino, a lungo andare, ce l'ha fatta, e nel 2011 diciamo è stato riscontrato finalmente questa coppia che si è riprodotta per dare origine poi ai nuovi piccoli. E la cosa carina e molto interessante è che l'individuo che arrivava dalla Corsica, Indy, si è accoppiato di fatto con una femmina che non era stata censita, insomma, da questo progetto, quindi probabilmente era una femmina che era cresciuta liberamente in natura per dare poi origine ai dei nuovi individui. Ecco, la caratteristica di questi del falco pescatore, qualora lo vedessimo in giro, è di avere un anello di riconoscimento sulla zampa che è di colore azzurro Italia con la scritta in bianco, quindi proprio per riconoscere gli individui appartenenti a questo progetto che ha riportato dopo ben 42 anni di nuovo il falco pescatore sulle coste italiane. Che non è l'anello di fidanzamento, ma è l'anello appunto per di riconoscimento. Di riconoscimento, esatto, queste cose. Okay. Grazie a Caterina Spiezio, parco naturaviva.it, come sempre, per tutte le informazioni sul parco di Bussolengo. Ciao Caterina, grazie. Ciao. Ciao, grazie a voi. Noi ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua, con Terra in Vista. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Terra in Vista. Eccoci qua in questa puntata dedicata alle coste. È arrivato il momento della quarta domanda. Ascoltiamola insieme. Yuhu! Come funziona un faro? Sì, è il momento dei fari. I guardiani delle coste. Certo, che punteggiano il nostro perimetro. Beh, abbiamo trovato quella che forse è la massima esperta in Italia di fari. Diamo il benvenuto a Cristiana Bartolomei, ingegnere dell'Università di Bologna. Ciao Cristiana. Ciao, benvenuta. Ciao, buongiorno. Hai mai dormito in un faro? Io sì. Ah sì, eh? Ho avuto questa fortuna di dormire in un faro, sì, a Cozzo Spadaro. Che bello, insomma. Bellissimo, devo dire che è un'esperienza molto interessante. I fari italiani, perché ovviamente negli altri paesi si può dormire nei fari, in Italia no. Quindi... Partiamo proprio dai fari. Come nascono? Chi ha avuto l'idea di realizzare un faro? Allora, in realtà un inventore vero e proprio non c'è. Nel senso che i primissimi fari sono stati, diciamo così, inventati per il fatto che veniva acceso un fuoco su un colle. Quindi non esiste un inventore dei fari, non sappiamo esattamente chi per primo abbia deciso di costruire una costruzione fatta con i fari. Quello che sappiamo però da dove deriva il suo nome, il nome di Faros, e ovviamente deriva dall'isola che sta di fronte ad Alessandria d'Egitto, che era appunto un luogo in cui era presente una torre, e su questa torre ardeva costantemente un grande fuoco, e in maniera tale che appunto i naviganti si potessero orientare. Quindi credo che il nome faro sia nato da questo, e poi sia stato, come dire, necessario realizzare da parte di qualche ingegnere del genio civile, quindi qualche persona che, diciamo così, che non è rimasta nota nella storia, esatto, che non è rimasta nota nella storia, per poter appunto creare un aiuto ai naviganti. Quanti sono i fari in Italia, lo sappiamo? Allora sì, i fari in Italia sono attualmente circa 155, se consideriamo i fari più importanti, per circa 8.000 km di costa, e per fari importanti intendo quelli che hanno una portata superiore alle 15 miglia nautiche, quindi che si possono vedere da lontano. Non calcolo in questo conteggio, ad esempio per rendere chiaro a tutti cosa sto dicendo, i fari che sono ad esempio all'imbocco dei porti. Okay. I fanali che noi vediamo all'imbocco dei porti, quelli non vengono considerati perché hanno una portata inferiore alle 15 miglia. Ma quindi non sono tutti uguali i fari, no? Sono varie tipologie, categorie? Sono diversissimi, e anzi appunto io ho impiegato molto tempo a studiarli proprio perché volevo capire bene le differenze. E in realtà appunto si differenziano soprattutto in base alle componenti funzionali che presentano, quindi per la lanterna, per la torre e per l'edificio di servizio. Infatti noi molto spesso vediamo dei fari che hanno solo la torre, vediamo fari che hanno lanterne di una certa dimensione, altri fari con lanterne molto piccole, e queste differenze appunto differenziano i fari l'uno dall'altro, oltre che per, come posso dire, per la loro forma visiva. Vi sarete resi conto che alcuni fari sono colorati, altri sono bianchi, altri sono a strisce, altri sono a quadri. Tutte queste differenze ovviamente le differenziano l'uno dall'altro. Ma perché e... possono essere utili anche di giorno i fari? Assolutamente sì, i fari sono soprattutto, cioè non si direbbe, però sono molto utili di giorno. Proprio questa differenziazione che hanno nella loro forma e nella loro geometria li rendono distinguibili anche di giorno. Quindi quando noi vediamo ci sono per esempio alcuni fari come ad esempio in Puglia che sono quadrettati di bianco e di nero, e la differenza della misura dei quadretti bianchi e neri per un navigante esperto ovviamente sa riconoscere dove si trova e che appunto si trova rispetto a quel faro. Bello, non ci avevo mai pensato a questa cosa. Sì, infatti sono, esatto, fanno, come dire, non serve solo di notte il faro. Esatto, di notte perché fa padrone la luce, no? Di notte fa da padrone la luce, ma di giorno fa da padrone l'architettura, quindi è molto interessante questo, credo. E puoi spiegarci come funziona un faro, perché di notte non è una luce a caso quella che viene emessa. Esatto, allora il faro innanzitutto la cosa interessante da dire è che la luce che noi vediamo così potente e così forte in realtà è contenuta in una lampada di pochi centimetri con una potenza di solo 1000 watt, quindi è assolutamente molto piccola la lampada con cui abbiamo a che fare, però sfruttano un apparato lenticolare, quindi intorno a questa lampada ci sono una serie di lenti chiamate appunto lenti di Fresnel che sono convesse e quindi questo permette di far sì che questa luce, a seconda di come sono fatte queste lenti, questa luce possa creare un fascio di raggi luminosi diretto all'orizzonte. E ovviamente questi fari si differenziano in funzione della portata luminosa, quindi che qui entra un campo un po' più tecnico, che quindi non so se è il caso che magari vi spieghi cosa sia. Comunque diciamo che per portata luminosa si intende la massima distanza in cui la luce può essere scorta. Okay. E quindi ovviamente più il faro è importante, quindi sta su promontori oppure sui luoghi che sono magari molto pericolosi per la navigazione, più allora questa luce sarà forte e sarà più visibile da lontano. Ma quali sono i fari italiani che bisogna assolutamente vedere? Qual è il tuo faro preferito in assoluto? Allora, io dire che ne ho, chiaramente sono molto legata al faro di Corso Spadaro, appunto a Porto Palo in provincia di Siracusa, perché è appunto l'unico faro, diciamo così, in cui ho dormito e quindi la mattina potermi svegliare e andare a mirare il panorama dalla terrazza della lanterna è un'esperienza assolutamente unica. È chiaro che in Italia abbiamo dei fari che sono conosciutissimi, famosissimi, e quindi non citerei questi, come ad esempio la Lanterna di Genova, il faro della Vettura di Trieste, il faro di San Venerio sull'isola del Tino, che tra l'altro è anche il patronio, San Venerio è anche il patrono dei faristi, o l'ormai notissimo, credo per tutti, il faro di Capo Spartivento, dove è l'unico faro in cui uno può dormire pagando, c'è un bellissimo albergo, quindi hanno fatto un bellissimo recupero. Oltre a questi, diciamo così, che sono più noti, io se dovessi consegnarne tre, il primo in assoluto sarebbe il faro di Punta della Guardia nell'isola di Ponza, che è bellissimo, si può raggiungere via mare oppure solamente via terra, però con una scarpinata infinita, e quando arrivi là ovviamente entri in un posto che è fermo al 1800, cioè assolutamente fermo lì, non c'è niente, quindi gli arredi sono ancora quelli di allora, e quindi è una cosa fantastica e favolosa. E poi a seguire un altro faro molto bello, a mio avviso, è quello di Capo Sandalo sull'isola di San Pietro in Sardegna, per la posizione in cui si trova e per l'architettura che presenta. Quindi, però purtroppo le persone non ci possono andare dentro, quindi ma come si fa a diventare in Italia, come si fa a diventare guardiani del faro, che ci stiamo interessando? È un concorso praticamente, un concorso pubblico, è un concorso pubblico che poi tra l'altro non sono proprio informatissima su questo, però avevo capito che negli ultimi anni in realtà tu non entri come farista vero e proprio, ma entri come per un bagno della Marina Militare, entri in una certa posizione e poi se vuoi puoi convertirti in farista. Però diciamo che ormai i fari sono pochissimi, perché tutti i fari sono ovviamente automatici. Automatizzati, sì, esatto. Quindi i fari sono. Questo crea un problema appunto di manutenzione per la struttura. Quindi molti fari noi in Italia, che ne abbiamo tantissimi, sono tenuti abbastanza male. Hai capito? Pensaci, Federico. Insomma, a me dicono che non so neanche cambiare una lampadina, quindi figurati. Non potresti fare i fari. Assolutamente no. Non è il mio mestiere. Bello, esatto. Però, insomma, amo molto, perché sono veramente delle bandiere del nostro paese, no? Quindi posti meravigliosi, che purtroppo, questo lo dico con un po' di, come dire, di tristezza, no? Non si fa niente per questi fari. Basta guardare di fronte a noi la Croazia, quello che ha fatto sui fari, che sono oggi a bed and breakfast, alberghi. si può andare a visitarli, a fare tutto, qua da noi no, da noi sono ancora troppo abbandonati, insomma, un pezzo per di pochi, storia che poi sì, si perde, per esatto. Pochi, esatto. Grazie vero Cristiana, buona grazie estate. A te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Telmo, illuminaci tu ora. Sei il nostro faro. Ti racconto una storia di quando in Italia non c'erano fari. Ah. E non c'erano neanche i porti. Perché parlando di coste, mi sembra importante ricordare che le coste dell'Italia si spostano e si sono sempre spostate. In particolare nelle ere glaciali, quando i mari erano più bassi, anche di 80-90 metri, le coste italiane avevano una forma tutta particolare che potremmo immaginare insieme se vuoi. Uh-huh. In queste epoche, per esempio, il Po sfociava sotto Ancona, faceva una grande curva in mezzo all'Adriatico settentrionale, andava giù e sfociava nell'Adriatico molto più sotto. Il Gargano era vicinissimo alla Croazia e poi c'erano tante isole, quindi c'era una sorta di passaggio di ponti, di isole da una parte e dall'altra. La Puglia era vicinissima all'Albania, quindi era un po' un ponte tra est e ovest. Malta era quasi attaccata alla Sicilia sudorientale. Il canale di Sicilia era strettissimo, quindi da Mazara del Vallo potevi praticamente andare in Tunisia, avevi davanti a te la punta della Tunisia, e probabilmente da lì, da sud, sono passati anche dei transiti umani, tra i tantissimi, in Italia. Sardegna e Corsica erano attaccate, l'Elba era una penisola vicinissima alla Corsica, tra l'altro. Quindi insomma, l'Italia, qui vedi benissimo come con queste coste che vanno e vengono, è sempre stato un ponte tra sud e nord, tra est e ovest. E ricordiamoci che questa storia sta continuando ancora adesso, perché a causa nostra principalmente, cioè del riscaldamento climatico, adesso le coste stanno facendo l'opposto, ci stanno alzando i mari, quindi si stanno un po' restringendo. Quindi prepariamoci a un fenomeno inverso. Verso la fine di questo secolo l'Italia sarà un pochino più stretta. Beh, mi sembra la storia ideale per lanciare la nostra rubrica. Eppur si muove. Eppur si muove. È il momento di Eppur si muove, perché andare alla scoperta del nostro paese significa anche scoprire i suoi scienziati, e noi lo facciamo proponendovi anche degli esperimenti grazie al giornalista e divulgatore scientifico Andrea Vico dell'associazione Two Science. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovato. Ciao Fede, ciao Telmo. Siamo pronti come sempre per seguire i tuoi consigli. Prima però andiamo a scoprire il profilo dello scienziato o della scienziata di oggi. Scienziato italiano, naturalmente. Questa volta facciamo un salto all'indietro nel tempo, andiamo nel 600 e parliamo di Evangelista Torricelli, un matematico, un fisico che ebbe la fortuna di essere assistente niente meno che di Galileo Galilei, di cui poi, come dire, proseguì le ricerche sul moto dei gravi, sul moto dei fluidi. Tanto per dirtene una, dobbiamo a lui il barometro a mercurio, il famoso tubo di Torricelli. Quindi un grande studioso delle leggi della natura, ma anche un grande inventore. Andrea, come possiamo conoscerlo meglio? Allora, questo è un gioco che io chiamo i giochi anti-noia da ristorante. D'estate a volte ci tocca qualche pranzo con tutta la combriccola, qualche cena, e magari qualcuno dopo un po' si annoia tra una portata e l'altra. Allora, è un gioco che si può fare appunto al ristorante. Bisogna solo portarsi o chiedere magari al ristorante un cartoncino, e si prende un calice che facilmente troveremo sul tavolo, meglio un calice da vino bianco con il collo un po' più stretto e il bicchiere un po' più affusolato. Sì. Lo si riempie d'acqua quasi fino all'orlo, lasciamo un dito, diciamo così, di spazio tra l'acqua, il pelo dell'acqua e il bordo del bicchiere. Dopodiché il cartoncino che viene ritagliato deve essere 2 cm più ampio, più largo rispetto al diametro del bicchiere. Quindi nel momento in cui io appoggio il cartoncino sul bicchiere, chiaramente il cartoncino sporge a sufficienza in tutte le direzioni. A questo punto tengo il bicchiere verso l'alto con la mano destra, per dire, con la mano sinistra cerco di premere, ma leggermente, non devo schiacciare il cartoncino che sennò rischia di cadere dentro il bicchiere perché si flette ovviamente. Devo tenere ben aderente con le dita il cartoncino al bordo del bicchiere. Dopodiché con un gesto, provatelo prima, va, ma sì, a casa o sulla spiaggia, che viene meglio, con un gesto secco ribalto il bicchiere di 180 gradi, quindi a testa in giù. Le dita che tengono premuto il cartoncino sul bordo del bicchiere seguono chiaramente in maniera fluida il movimento, non ci devono essere scossoni al cartoncino. E dopodiché chiedo: e se io tolgo le dita, cosa fa l'acqua? la risposta intuitiva è quella di ovviamente casca e inonda la tavola. In realtà la sorpresa sarà che l'acqua non casca, perché il cartoncino diventa quasi un tappo, pur essendo appena appoggiato, perché l'aria che preme in tutte le direzioni, come giustamente Torricelli ha insegnato, sarà in grado di sostenere il peso dell'acqua anche contro la forza di gravità, e quindi impedire che l'acqua caschi sulla tavola. Fantastico. Chiedere il permesso al ristoratore. No, infatti, oggi con piacere do il sito internet di Andrea Vico, che è twoscience.it, per i camerieri e ristoratori di tutta Italia, insomma, sanno a chi rivolgersi. Esatto. Ma la risposta, quando io faccio pasticci in giro, dico io sono in missione per conto della scienza. Bravo. E quindi bravo. In qualche modo riesco a farmi scusare qualche piccolo pasticcio. Bravo. Questo è Pur si muove. Un grazie ad Andrea Vico. Alla prossima puntata. Ciao Andrea. Ciao. Ciao, a presto. E termina qui questa puntata di Terra in Vista dedicata alle nostre coste. Come sempre, radio24.it è il nostro sito, da lì potrete riascoltare il programma. Un grazie ad Andrea Spenuso in redazione, a tutti i nostri tecnici, Peter Bescapè, Andrea Roccabella e Valeria Bernardi, e un grazie a Telmo Pievani. Telmo, cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo imparato che di notte le coste italiane sono tutte illuminate, pure troppo, diciamo, e che stranamente il nostro umore dipende molto da che vento tira. Vero, vero. Prendiamo nota. Noi ci ritroviamo qui alla prossima puntata con l'Italia spiegata a mio figlio.